Sport e motori con Massimo Di Scienza. Ti dico una cosa in anteprima, finalmente, perché tanto ormai fra poco lo diciamo, e ho firmato per 2 anni con la Yamaha ancora. Valentino Rossi non si smentisce mai, è così, in questo modo ai microfoni Mediaset subito dopo la fine della gara del Gran Premio di Brno, più o meno una mezz'oretta fa, ha voluto scherzare su quella che invece è la notizia che i suoi tifosi, i tifosi Ducati, attendono da tanto e tanto tempo, ovvero l'ufficializzazione del passaggio di Valentino in Ducati. Lui invece ha annunciato, appunto, per scherzo, la firma di un inesistente ovviamente contratto con la Yamaha. Colpo di scena dunque ovviamente mancato, che è durato soltanto un istante, ma che non ci sarà, perché Rossi Ducati è un matrimonio che si farà e che potrebbe avvenire davvero in questi minuti. Buon pomeriggio, ben trovati da Massimo Di Scienza, alle 16:31 minuti di questa domenica 15 di agosto, al termine di una gara che per la MotoGP, il motomondiale, è stata abbastanza interlocutoria e che ha visto il nuovo successo di Jorge Lorenzo sempre più vicino alla conquista del titolo mondiale. In un sonnacchioso pomeriggio di Ferragosto, però in fibrillazione il mondo del motomondiale, dell'informazione sportiva non solo, perché si attende, come dicevamo, a minuti l'annuncio ufficiale del passaggio di Valentino Rossi alla Ducati, una di quelle notizie destinate sicuramente a lasciare il segno. Ne parleremo per la prossima mezz'ora, soprattutto con voi via SMS al 349-238-6666, oppure se avete voglia di parlare con noi al telefono all'800-2400-24, perché la domanda che ci si fa un po' tutti, no? Ai bar, ma non solo, in questi giorni, e che continueremo a farci per le prossime settimane: ma questo matrimonio, questa formula Valentino Rossi Ducati, è una formula vincente? Oppure ci sono rischi, ci sono problemi all'orizzonte? C'è quella che Enzo Ferrari chiamava un po' la eccessiva pressione, quasi una sorta di maledizione per i piloti, si parla di Formula 1 in quel caso ovviamente, ma per i piloti italiani con una moto italiana. È vero che Valentino ha già vinto con l'Aprilia, ma con la Ducati è ovviamente un'altra cosa a questi livelli. È la prima domanda che facciamo tra poco al nostro amico Carlo Vanzini. Ciao Carlo, inviato di Sky Sport, buona domenica, buon Ferragosto. Abbiamo perso Carlo Vanzini, lo andiamo a recuperare tra qualche istante, perché vorremmo partire proprio da qui, no? Proprio dalla notizia dell'annuncio del matrimonio Valentino Rossi Ducati. Facciamo un passo indietro, vediamo quello che è successo nel corso del pomeriggio a Brno, Repubblica Ceca, 10ª prova del motomondiale MotoGP. Andiamo a dare un'occhiata a quello che è il film del Gran Premio. In partenza Jorge Lorenzo brucia subito Spies e Pedrosa, si porta in testa. Valentino Rossi partiva dalla 5ª posizione in griglia, non riesce a mantenere la sua posizione, parte molto prudente, si ritrova subito all'ottavo posto. Al terzo giro Pedrosa supera Spies, prova ad andare a prendere Lorenzo, poi anche Stoner scavalcherà il pilota texano. Al quarto giro la caduta di Dovizioso, che perde aderenza, scivola e si ritrova in mezzo alla pista. La gara prosegue senza altre grandi emozioni, Rossi risale fino al 5º posto ma non dà mai l'impressione di poter andare a prendere chi gli sta davanti, continua a girare quasi un secondo al giro più lento di Lorenzo. Il finale cristallizzato, non cambia nulla, da segnalare però gli applausi per Randy Depunier, che taglia il traguardo al 10º posto a 26 giorni dalla frattura a tibia e perone, un vero e proprio record. Quindi ordine d'arrivo del Gran Premio di Brno: primo Lorenzo, secondo Pedrosa, terzo Stoner, quarto Spies, quinto Valentino Rossi. Classifica mondiale con Lorenzo sempre più leader, sempre più padrone, 235 punti per lo spagnolo della Yamaha, davanti al connazionale della Honda Pedrosa, 158, poi Stoner che scavalca Dovizioso al 3º posto, sale sul podio mondiale con 119 punti, Dovizioso 115, Valentino Rossi 5º a quota 101. Dovremmo aver recuperato il nostro Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport, buona domenica Carlo. Ciao, buona domenica a tutti. Eccoci qui, anche tu immagino in fibrillazione, attaccato a Twitter, Facebook e i siti internet per capire quando arriverà l'ufficializzazione dell'annuncio di Valentino Rossi alla Ducati. Per un attimo, Carlo, c'è stato evidentemente un bug nel sito della Ducati, che nella versione americana per un attimo ha pubblicato queste parole: Rossi is red. Poi è andato immediatamente offline il sito. Ma insomma, a parte le battute e le attese, è ovviamente una questione di minuti, te la attendi anche tu, insomma, nelle prossime ore questo annuncio, no? Gli articoli, lo sai, sono già scritti. Eh sì. Chissà come mai, però questa, chissà come mai ci fanno aspettare così tanto. Ma si vuole creare un po' d'attesa, ovviamente, in quella che è la giornata di Lorenzo, perché è arrivata la settima vittoria, insomma, un super Lorenzo diventa la giornata di Valentino Rossi, e questa è anche la grandezza di Valentino Rossi, essere sulla bocca di tutti anche nel giorno in cui dovrebbe esserci qualcun altro come Lorenzo che si merita assolutamente la copertina della MotoGP. Quindi noi avevamo un po' speculato nelle scorse settimane, ricorderai anche tu eri di questo avviso, che l'annuncio ci sarebbe stato il giorno 16, anche perché domani si torna in pista a Brno a provare le nuove gomme per il prossimo anno, i nuovi assetti per il prossimo anno. Ci aspettavamo un po' l'annuncio posticipato di qualche ora. Tu pensi che Valentino possa aver premuto per anticipare, per bruciare un po' la giornata di gloria di Lorenzo? Ma credo ci siano state delle trattative per la giornata dell'annuncio, un annuncio che doveva teoricamente già esserci stato, ma è stato rinviato proprio per venire incontro a quelle che erano le esigenze della Yamaha, soprattutto per il mercato americano. Avevano chiesto che non venisse fuori la notizia ufficiale prima di Laguna Seca, e così è stato. In cambio si era ottenuto il fatto che Valentino Rossi potesse, o meglio potrà, girare con la Ducati in anticipo rispetto a quelli che sono i tempi soliti contrattuali. Vedremo poi se sarà così. Il fatto che Valentino Rossi possa mettere pressione o abbia messo pressione per anticipare l'annuncio ci sta, perché Valentino Rossi è uno che assolutamente guarda a queste cose, guarda l'audience delle gare, guarda, va a vedere anche quando c'è un picco d'ascolto su un duello. Ai tempi di Gibernau era quasi maniaco nel guardare i dati d'ascolto per vedere se i duelli con Gibernau tiravano o no, e quindi ci può stare, però siamo una non notizia ormai. Il fatto che Valentino Rossi sia in Ducati è una notizia che è una non notizia. Sentiamo come lo stesso Valentino Rossi, subito dopo la gara di Brno, sempre ragionando in via ipotetica, perché appunto non essendoci ancora l'annuncio ufficiale, di più non poteva dire, commentava questo suo ipotetico cambio di team per la prossima stagione. Bisognerà vedere tante cose, ormai bisognerà vedere, aspettare l'annuncio ufficiale di oggi pomeriggio per vedere cosa farò gli anni prossimi, e se dovessi cambiare naturalmente sarebbe una bella sfida, e ricominciare da zero, e ci sarebbero delle grandi motivazioni anche. Grandi motivazioni, bella sfida, ricominciare da zero. Forse, caro, tutto quello che è mancato nel rapporto con la Yamaha quest'anno, no? Motivazioni quasi sotto i tacchi, al di là dell'incidente, come dire, anche forse una certa consapevolezza che l'eroe di casa stava diventando qualcun altro. Ma io credo che quando ti trovi di fianco uno bravo, molto bravo, quando tu sei stato e sei il numero uno e ti consideri il numero uno, diventa difficile, soprattutto quando vedi che all'interno della tua azienda iniziano a dare considerazione, molta considerazione anche all'altro. Allora lì cerchi prima di avere delle risposte: sono io il numero uno o no? Se la risposta è negativa e vedi che comunque all'altro vengono date le stesse condizioni, poi inizi a guardarti in giro, perché il mercato, comunque, uno come Valentino Rossi l'ha sempre avuto, e non solo Ducati. Di conseguenza ha visto che la Yamaha ha puntato forte su Lorenzo, ha dato a Lorenzo i suoi stessi mezzi quando lui magari voleva un qualcosa in più dalla Yamaha, ma giustamente, perché lui ha dato tantissimo alla Yamaha, e a quel punto si è guardato in giro. Ma io credo che al di là dell'arrivo di Lorenzo fosse naturale il passaggio di Valentino Rossi in Ducati, perché se vogliamo è la classica ciliegina, per essere abbastanza banali, la classica ciliegina sulla torta della carriera di un fenomeno. Se Valentino Rossi riuscirà a vincere anche con la Ducati, allora lui è già leggenda, non so che termine utilizzare per definirlo in più, però dovesse vincere anche la Ducati, Valentino Rossi diventerebbe davvero qualcosa di unico al mondo. Ma secondo te l'approccio, la richiesta di fidanzamento, l'offerta di fidanzamento, chi l'ha fatta? Valentino alla Ducati o invece è stato il contrario? Credo che ci siano molti aspetti dietro questa trattativa. Non dimentichiamo anche la sua voglia di Ferrari, non dimentichiamo che il main sponsor della Ferrari, Philip Morris, è il main sponsor della Ducati, Fiat seguirà Valentino Rossi in Ducati, quindi la Ducati diventerà a tutti gli effetti una Ferrari a due ruote per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Quindi c'è stata molta politica anche dietro, anche gli stessi rapporti con Stefano Domenicali della Ferrari e di conseguenza con lo sponsor principale. Credo che questo abbia portato al matrimonio fondamentalmente con la Ducati, perché è vero, si fa tanto per la gloria, per entrare ancora di più nella storia, ma non si fa niente gratis oggigiorno, quindi c'è un retroscena economico importante anche in questo accordo di Valentino Rossi con la Ducati. Credo che Valentino Rossi fosse alla ricerca di una nuova sfida, soprattutto per battere Lorenzo. Restare dove è Lorenzo adesso, dove sta diventando padrone Lorenzo, sarebbe stata una sfida particolare per Valentino Rossi. Cercare di batterlo andando da un'altra parte, dove magari adesso sono anche in difficoltà, come ha fatto quando lui è andato in Yamaha, beh, allora sì, diventa una sfida alla Rossi. Non dimentichiamo il suo libro, Se non ci avessi provato, diceva Valentino Rossi, quindi probabilmente adesso ci aspettiamo un altro capitolo, un altro libro della sua avventura, un libro importante. Credo che fondamentalmente il flirt si è iniziato da una parte e dall'altra, insieme. Caro, tu settimana scorsa eri a Madonna di Campiglio, in quel splendido scenario c'era la versione estiva della kermesse, che invece abitualmente si tiene in inverno. Hai fatto tu il nome Ferrari, e in quel caso appunto Madonna di Campiglio, il binomio Ferrari-Ducati va avanti da anni. Ma secondo te l'ipotesi di Valentino, che fa un paio d'anni in Ducati e poi un anno in Ducati e poi passa a guidare la terza Ferrari, se mai ci sarà l'ok per la terza monoposto Formula 1, è un'ipotesi così su cui ci balocchiamo noi giornalisti tanto per riempire le nostre trasmissioni, le nostre pagine dei giornali, oppure c'è effettivamente qualcosa e tu hai avuto modo di toccarlo con mano settimana scorsa? Valentino Rossi è andato sempre molto forte nei test che ha fatto con la Ferrari. Detto questo, nell'ultimo test, proprio l'ultimo test effettuato, il giorno dopo Felipe Massa ha abbassato i suoi tempi di 3 secondi. Io credo, con le regole che ci sono adesso in Formula 1, un'avventura di Valentino Rossi in Formula 1 è improponibile, non è pensabile, perché non c'è il tempo per allenarsi. Lo vediamo con Schumacher è assolutamente in crisi, perché non ha tempo di prepararsi, anzi non ha possibilità per via del regolamento di girare con queste macchine, e servono tanti chilometri per adattarsi a questo tipo di macchine, perché un conto è arrivare a fare un buon tempo, un conto è arrivare a fare un tempo da prime posizioni. Quindi credo molto difficile Valentino Rossi in Formula 1, se non per qualche sporadica presenza con quella che è l'idea della terza macchina. L'idea della terza macchina nasce proprio per portare grossi personaggi nel mondo dei motori, si parlava anche di Loeb con la Red Bull, a partecipare a dei gran premi. Vedere una carriera futura di un Valentino Rossi, che non dimentichiamo è classe 1979, è vero che i supereroi sono eterni, però inizia a avere i suoi 32 anni, tra poco, il 16 febbraio compirà 32 anni, e di conseguenza se va a firmare per 2-3 anni con la Ducati, poi pensare a un futuro in Formula 1 mi sembra eccessivo. Io direi, godiamoci questa avventura tutta italiana di Valentino Rossi, possiamo finalmente da italiani tifare per la moto italiana e il pilota italiano. Poi la Formula 1 lasciamoglielo come passatempo, come hobby, come divertimento, come sfogo. Secondo te i tifosi della Ducati, che nel corso, i ducatisti duri e puri, che nel corso degli anni secondo me non hanno proprio gradito tantissimo la serie di vittorie straordinarie di Valentino su moto che non fossero la Ducati, perché proprio, come dire, i ducatisti, si sa, vedono, come tutti i tifosi intransigenti, vedono soltanto la propria squadra. Come prenderanno l'arrivo di Valentino? Bene. Dici? Sono come tutti quei tifosi della Ferrari che odiavano Fernando Alonso prima dell'arrivo di Alonso in Ferrari, o odiavano Schumacher prima dell'arrivo di Schumacher in Ferrari, o amavano Schumacher in Ferrari prima dell'annuncio di Schumacher in Mercedes. No, io credo che, a parte qualche fanatico che forse non so per qual motivo debba pensare in modo negativo all'arrivo di Valentino Rossi, no, ci sarà solo un plebiscito a favore di Valentino Rossi, perché è un binomio straordinario. Bisognerà vedere in pista quello che potrà essere il potenziale, perché prima ho ricordato l'anagrafe di Valentino Rossi per la Formula 1, ma è un'anagrafe che vale anche per la MotoGP, per il suo sport, contro un Lorenzo che è 8 anni più giovane, quindi è un Lorenzo che sta prendendo la fiducia di un mondiale ormai vinto, un Lorenzo che correrà con la consapevolezza di poter lottare per il titolo mondiale, di essere all'altezza di Valentino Rossi, ci sarà un Pedrosa più competitivo, insomma avremo un mondiale molto avvincente, con un Valentino Rossi che va su con l'età. Consapevolmente gli anni portano ad avere dei riflessi un po' più appannati, il fenomeno resta, ma qualcosa per forza all'età la devi pagare. Quindi il dubbio può restare su Valentino Rossi così, tra virgolette, non me ne voglia, anziano, a questa avventura che tutti volevano, suo arrivo in Ducati. Carlo Mazzini, ripartiamo da qui per la seconda parte di Sport e Motori. Partiamo anche dagli sms che stanno arrivando al 349-238-6666. Adesso traffico, poi di nuovo insieme. Sport e Motori. 47 minuti dopo le 16, seconda parte che ricomincia ovviamente con gli aggiornamenti che riguardano questo matrimonio che sa da fare tra Valentino Rossi e la Ducati. È tornato online per tutti gli appassionati di internet il sito della Ducati, ma nelle categorie news eccetera ancora del famoso annuncio non c'è traccia. Noi ovviamente continueremo a tenervi informati sulla vicenda. Dicevamo, ci faceva piacere sapere anche cosa ne pensate di questo matrimonio che nascerà. 349-238-6666. Un paio di messaggi tra i tanti. Robby da Milano: penso che la pressione, perché noi segnalavamo all'inizio insomma come Valentino Rossi su una moto italiana potrebbe avere pressioni eccessive o superiori in ogni caso rispetto a quelle avute in Yamaha, penso che la pressione, scrive Robby, sia una cosa con cui Valentino convive benissimo da anni. L'incognita esisteva anche ai tempi del cambio Honda Yamaha. Rossi è capace come nessuno nella messa a punto, quindi credo sarà un matrimonio fantastico. Da qui a dire che vincerà il mondiale in Ducati mi sembra comunque prematuro. Più o meno sulla stessa lunghezza d'onda anche tanti altri nostri ascoltatori. Rossi sa gestire alla grande la pressione, sorprende come stia ancora pagando psicologicamente però l'incidente avuto nel corso della stagione. Ancora con Carlo Vanzini, anche da te volevo sapere insomma un'opinione sul discorso pressione per il pilota italiano su Ducati. Vale la regola Enzo Ferrari o no? Ma secondo me lui è preparato, non subirà più di tanto la pressione, sarà certamente diverso, ma un pilota quando poi chiude la visiera non sta tanto a pensare la marca della moto che guida o la nazionalità della moto che guida. Quindi da quel punto di vista credo che Valentino Rossi non avrà assolutamente problemi. Resta, come dicevo prima, il dubbio, se vogliamo, dell'età, della qualità, della forza di Valentino Rossi contro dei ragazzi che ormai si stanno rivelando fenomeni come Lorenzo. Per il resto credo sarà un'avventura tutta da seguire, da vivere, e credo che adesso, tornando anche agli sms, Valentino Rossi stia pagando sì l'infortunio, perché l'avevamo detto anche l'altra volta, era più facile rientrare, disputare la prima gara che non quelle successive, perché dalla prima non ti aspetti niente, dalle altre c'è entusiasmo a morire. E secondo me la Yamaha, ma è una mia opinione assolutamente personale, adesso non gli sta passando di certo il mezzo migliore, perché sarebbe anche assurdo da parte della Yamaha mettere in mano a Valentino Rossi degli sviluppi che poi magari vanno verso anche la prossima stagione, che poi Valentino Rossi si potrebbe portare dietro come memoria, diciamo. Ecco Carlo, hai anticipato, mi hai bruciato la prossima considerazione. Volevo proprio chiederti questo: secondo te il primo nemico in questo momento di Valentino in casa Yamaha non sia proprio all'interno del muretto? Sentiamo Valentino Rossi come ha vissuto la gara di oggi. Ricordiamo, quinto posto a Brno nel Gran Premio, la decima prova stagionale, vinto da Jorge Lorenzo. Quindi il commento di Valentino Rossi sulla gara. Siamo molto delusi tutti, perché avevamo grandissime, delle buone aspettative per questa gara, semplicemente perché ieri giravo in 57.4, 57.5 con la gomma dura, poi ho fatto anche 57.5 con la gomma morbida usata dalla mattina con 20 giri. Quindi eravamo tranquilli. Oggi però subito dal primo giro non avevo grip e ho girato fino alla fine almeno un secondo più piano di ieri, però sinceramente non sappiamo perché. Insomma, ancora Valentino non si sa spiegare come mai la brutta prova di oggi, nonostante tutto sommato delle buone qualifiche. Oggi è davvero una gara anonima, quella a Brno, ricordiamo Lorenzo Pedrosa, Stoner, Spiess e poi Valentino Rossi. Per Lorenzo ancora un successo, più 77 punti in classifica generale su Dani Pedrosa. Insomma, hanno chiesto a Lorenzo se ormai padrone del mondiale, il titolo è nelle tue mani, tutto dipende da te, come la vivi questa situazione? Sono liderando il mondiale e mi sento molto forte, abbiamo vinto tante gare, ma ancora mancano 8 gare e Valentino ha vinto tante mondiali, io ancora non ho vinto nessuno, allora padrone non è che mi sento. Se Lorenzo non si sente padrone con 77 punti di vantaggio, insomma, evidentemente o è scaramantico oppure vuole attendere la certezza aritmetica del mondiale che potrebbe arrivare già nelle prossime gare. Se esiste ancora un minimo di incertezza per quanto riguarda il titolo, ma proprio minimo, è perché comunque Pedrito non molla. Anche oggi è stato l'unico a cercare di impensierire Lorenzo, soprattutto in avvio, poi lo ha un pochino lasciato andare vista la sempre netto divario esistente sui giri tra i due piloti spagnoli. Insomma, abbiamo chiesto a Pedrosa se esiste ancora una corsa per il titolo mondiale, come vede l'attuale situazione, soprattutto il divario in questo momento con Jorge Lorenzo. Da qui alla fine d'anno per il campionato è molto difficile, perché lui sta in un momento di forma buonissimo e sta dimostrando andare molto forte anche per i punti che c'ha da vantaggio, no? Allora noi dobbiamo da qui alla fine d'anno provare ad essere più vicini possibile per sviluppare almeno un po' di più la nostra moto, così essere più già pronti alla prima gara dell'anno prossimo. Insomma, Pedrosa che già guarda al futuro, non può fare altrimenti, visto che a meno di clamorosi colpi di scena si dovrà accontentare del secondo posto nella classifica del mondiale, risultato comunque eccellente, però avrebbe a disposizione sia i mezzi tecnici sia anche la moto per provare a fare qualcosa di più. Carlo Vanzini, torniamo ovviamente a Valentino Rossi, che è un po' il fulcro della puntata di oggi di Sport e Motori. Peraltro non ci siamo dimenticati che esistono tantissimi appassionati di Formula 1, ci siamo presi una settimana di pausa con il Circus a quattro ruote, torneremo a parlarne domenica prossima, proprio perché Carlo, in questa settimana non è successo nulla, perché le squadre sono in vacanza e ci sono altre notizie da approfondire, quindi non ci siamo assolutamente dimenticati degli appassionati di Formula 1, ma semplicemente abbiamo dato spazio all'attualità. Ti sottopongo questo SMS molto interessante di Roberto da Roma. Carlo dice: sono piuttosto i tifosi di Valentino Rossi, del dottore, che non vedono bene Rossi in Ducati. Come la vedi questa affermazione? Secondo te è vero che c'è qualche, anche qui, oltranzista di Valentino che potrebbe non gradire questo trasferimento? Ma è lo stesso discorso di prima. I tifosi di Alonso, che odiavano la Ferrari, ma erano tifosi di Alonso, adesso cosa fanno? Tifano comunque Alonso in Ferrari. Bisogna solo vederlo vestito di rosso sulla rossa e vedrai che poi saranno tutti d'accordo. I tifosi di Rossi contro la Ducati una volta e i tifosi della Ducati contro Rossi una volta. Quindi finalmente gli italiani andranno tutti d'amore d'accordo. Che Ducati troverà Valentino la prossima stagione? Da dove secondo te deve partire? Qual è la prima necessità per provare a partire subito forte? Io credo dovrà lavorare molto sulla guidabilità della moto, perché tutti i compagni di squadra di Stoner hanno evidenziato dei grossi problemi con una moto molto difficile da tenere in strada, domata solo dallo stesso Stoner. Quindi Valentino Rossi dovrà innanzitutto trovare l'erogazione, dovrà trovare la fluidità, nella moto e poi lavorerà sul resto, ma soprattutto dovrà concentrarsi su questo, e credo che in questo Valentino Rossi sia maestro e non ha bisogno assolutamente di insegnamenti, e riuscirà in questo intento. Poi arrivare ad avere una Ducati competitiva in lotta per il titolo, credo che il passo possa essere molto breve o molto lungo. Lì servirà la genialità di Valentino Rossi, ma soprattutto servirà che nell'accordo ci sia effettivamente Jeremy Burgess, perché la presenza del tecnico che da sempre segue Valentino Rossi è fondamentale, perché Valentino Rossi dà delle indicazioni, dall'altra parte ci deve essere un ingegnere che sa mediare le indicazioni di Valentino Rossi e sa applicarle alla moto. Se Valentino Rossi trova degli ingegneri con i quali non ha il feeling e magari hanno delle loro idee e iniziano un po' a andare in contrasto, diventa tutto difficile. La dimostrazione si ha oggigiorno in tutti i campi dove la tecnologia è fortemente applicata. In Formula 1 contano prevalentemente ormai gli ingegneri, così in MotoGP. Il lato umano del rapporto esiste ancora con Valentino Rossi e il suo ingegnere. Speriamo che questo connubio, come dovrebbe essere, continui in Ducati. E poi, sposando un sms che ci è arrivato proprio adesso al 349-238-6666, ci auguriamo anche che ci sia feeling tra Burgess, Rossi, Brivio, che con ogni probabilità seguirà Rossi in questo passaggio, e lo staff che in Ducati ha lavorato, lavora e presumibilmente continuerà a lavorare, cioè che la fusione a freddo poi possa avere successo, perché anche questo è un rischio, no Carlo? Beh, è questione di intelligenza. Quando si prende un numero uno devi lavorare per lui, e devi lavorare con lui e devi ascoltare lui. Se prendi Valentino Rossi, sai che lo prendi per vincere con Valentino Rossi, e non puoi permetterti neanche dei lunghi passaggi a vuoto. Puoi iniziare la stagione a rilento, puoi avere dei problemi di ambientamento all'inizio, ma poi devi vincere quando prendi un Valentino Rossi. Quindi è solo questione di intelligenza. Credo che tutti andranno assolutamente a remare nella stessa direzione per far sì che il sogno di un Rossi mondiale alla guida di Ducati diventi realtà. Carlo, siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento, abbiamo neanche un minuto a disposizione. A questo punto ti stuzzicherei ancora sul mercato piloti, tanto per chiudere il nostro programma. Abbiamo parlato praticamente soltanto di questo dalle 16.30, ma lo dicevamo, sono gli argomenti all'ordine del giorno. Via Valentino resta Lorenzo in Yamaha, chi sarà il suo secondo? Spies, come dicono tutti, oppure potrebbe esserci una sorpresa? Beh, Spies sta andando forte, si sta meritando quel posto. E appunto, credo... il rischio è quello, perché poi magari Lorenzo decide che va troppo forte per i suoi gusti. No, credo che Lorenzo non sia così potente da dettar legge in Yamaha. Comunque Spies è un pilota che sta andando molto forte, ma che al momento, a mio avviso, non può dare fastidio a un Lorenzo di queste dimensioni. Quindi, secondo me, la Yamaha può puntare su una coppia giovane. Può fare il secondo a 24 anni. Ma sai, in MotoGP non è che si parla, è più una cosa da Formula 1, prima e seconda guida. Lì veramente si conquistano i gradi da capitano in pista, e penso che Lorenzo al momento contro Spies non abbia alcun problema a conquistarsi i gradi. Va bene, vedremo. Grazie a Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport e nostro abituale ormai compagno di viaggio della domenica pomeriggio con Sport e Motori. A domenica prossima, Carlo, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao, buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Ci ritroviamo tra 7 giorni puntuali con Sport e Motori. Adesso l'informazione delle 17 e poi le mine vaganti con Federico Taddia. Ciao, buona domenica e buon Ferragosto a tutti. Sport e Motori.